Scritta sopra i muri, confusi ed insicuri. Fotografie e immagini di un infinito film. Siamo colpevoli esseri innocenti, testardi ed incoscienti. Raffiche di grandine, bandiere di felicità, soldati di un amore che ha sparato sulla guerra. Siamo noi le nuvole, le frasi nere.